Il XXI secolo sarà certamente caratterizzato dall'utilizzo del computer, non vi è campo dove esso non trovi il suo utilizzo. Oltre l'utilizzo più ovvio, al cui scopo se ne deve l'invenzione, in altre parole quello di calcolatore e di memoria dati, esso trova spazio in cucina per programmare la cottura di cibi e nel giardinaggio per annaffiare le piante e il verde al momento opportuno. In tutti i campi ha sostituito l'uomo e quasi in tutti lo ha superato. Il computer è uno strumento che mi ha aiutato a comprendere meglio Dio. La memoria del computer mi fa comprendere come non vi sia cosa che Dio dimentichi. Una volta che si siano inseriti dei dati, il computer non li dimentica, così come Dio non dimentica ciò che abbiamo fatto di bene e di male. Ebrei 6 e 10. L'opzione di reset, cioè cancellare, mi fa comprendere cosa volesse intendere Dio in Geremia 31, 34. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Una volta cancellati i dati, il computer non li riporta più. Allo stesso modo fa Dio. Una volta che ha dimenticato i nostri peccati, questi non gli ritornano più alla memoria. Non è come l'uomo, che afferma di dimenticare dei torti per poi di tanto in tanto riportarli in memoria. Ho compreso maggiormente l'onniscienza di Dio, grazie alla capacità e velocità del computer. In decimi di secondi, esso riesce a gestire milioni di dati e coordinare migliaia di macchine. Così Dio, che può ascoltare ed esaudire, nello stesso tempo, migliaia di preghiere. Se il computer, che è una macchina, è così sorprendente nonostante sia ancora in via di sviluppo, pensiamo come possa essere Dio, che è una persona, e in Lui sussiste ogni cosa. Infine, ho compreso l'onnipresenza di Dio dagli strumenti elettronici. Rimanevo stupito del fatto che il mio telefonino non fosse limitato dalla velocità o dal luogo in cui si trovasse. Se dal mio paese mi telefona un amico, ricevo la voce sempre nitida e chiara, sia che io sia fermo, sia che io viaggi in macchina alla velocità di 100 all'ora, o che io viaggi in aereo ai 1000 all'ora. Una volta mi domandavo come fosse possibile che le onde radio mi seguissero. Ciò è possibile non perché sia il segnale a seguire il telefonino, ma perché quest'ultimo si trova immerso in un vasto campo elettromagnetico in cui il segnale si propaga. Il segnale che io ricevo a Formigine è istantaneamente ricevuto anche in Sicilia. Così è per Dio. Egli non compie lo sforzo di seguire l'uomo, ma è presente in ogni luogo. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo per guardare i cattivi e i buoni. Proverbi 15, 3. Purtroppo, date le mie limitate conoscenze nel campo, non sono in grado di sfruttare tutte le risorse del computer. Sono in ogni modo contento di poterlo usare come una macchina per scrivere. Da quando uso il computer, ho scritto 100 volte di più, riuscendo a stampare decine di dispense. Oggi, come oggi, il computer è un aiuto insostituibile, del quale non saprei fare a meno. Proprio perché il computer è stato utilizzato anche come macchina per scrivere, sono stati creati dei programmi che aiutano chi scrive articoli, lettere, testi in genere. Ciò che mi piace di più è che il computer nel programma di scrittura dà la possibilità di non commettere errori di ortografia. Per aiutare a questo scopo, il computer mette un segno rosso sotto la parola sbagliata. Cliccando con il mouse, avevo scritto mouse e subito si è avverato ciò che sto dicendo. Sulla parola sbagliata esce una finestra dove si possono trovare altre parole che assomigliano a quella sbagliata. In questo modo, se anziché scrivere partire, scrivo partare, troverò come alternativa altre 20 parole quali parcare, parare, parlare, tartare, portare, pattare, coartare, sparare, scartare, spartane, barare, catare, datare, latrare, urtare, varare, piantare, plantare. In pratica il computer non riconosce la parola scritta carbei e offre delle alternative possibili. Ciò che mi ha indotto a scrivere questo messaggio è stato un particolare connesso al programma di scrittura. In un testo scritto da me ho notato che la parola disubbidiscono era sottolineata in rosso. Sapendo che la parola era corretta in italiano, sono andato con molta curiosità a vedere come mai il computer me la indicava sbagliata e, con sorpresa, nella finestra che doveva aiutarmi a correggere il presunto errore con qualche parola alternativa, compariva la scritta: nessun suggerimento. Il computer non era d'accordo con quella parola, la trovava sbagliata, però non sapeva cosa consigliare in sostituzione. In effetti il computer è stato impostato alla conoscenza di un certo numero di parole. Al di fuori di quelle tutte le altre sono reputate sbagliate o non riconoscibili. In definitiva il computer condannava l'errore solo perché non rientrava nei suoi schemi, nel suo programma. Sono rimasto di sasso. Tutto ad un tratto ho compreso maggiormente la causa dei nostri problemi di relazione con il prossimo. Dobbiamo ricordarci in ogni momento che, prima di essere dei cristiani, noi siamo degli esseri morali. Ognuno di noi nel corso della vita si è lentamente formato il proprio codice morale mediante la cultura e l'istruzione. Come un computer, in pochi decimi di secondo, valutiamo moralmente ogni azione e parola. Abbiamo il nostro schedario di morale: questo è giusto, questo è sbagliato, questo si deve fare, questo non si deve fare. Tutto deve rientrare nel nostro schema, diversamente noi segnano rosso, sbagliantico testamento. Questo modo di giudicare è tipico di chi ha una morale elettronica, in altre parole, quella che non vede altro bene o male, se non nella misura in cui egli abbia già predeterminato da se stesso. Questo modo di giudicare potrebbe anche andar bene, se non fosse che, oltre a dichiarare una cosa sbagliata negli altri, chi ha una morale elettronica non ha alternative morali, non può aiutare chi, secondo lui, commette una cosa ingiusta. Condanna e basta. Occorre del tempo, prima di arrivare ad acquistare la morale di Dio. Il punto non è tanto migliorare la nostra morale, in altre parole comprendere che l'adulterio non è solo nell'atto pratico, ma anche nel pensiero, o che uccidere non sia necessariamente togliere la vita ad una persona, ma anche l'essere con questa adirato. Quanto introdurre nuove cognizioni affinché si acquisti una nuova etica? Si tratta di arrivare a comprendere che, a volte, per osservare una legge di Dio bisogna violarne un'altra, e che la santità richiesta da Dio non si esprime sempre su di un terreno perfetto. In tempo di guerra alcune persone hanno mentito e subito la morte per salvarne delle altre. Il dilemma era: affermare la verità e altre persone innocenti sarebbero morte, o mentire e così trasgredire un comandamento? Oggi si mente per portare la parola di Dio dove il governo lo vieta. Come possono i cristiani mentire quando devono essere d'esempio nell'onestà? Possedere il proprio corpo rientra nella volontà di Dio, ma chiediamoci: è meglio essere incontinenti o essere controllati per poi essere tesi, odiosi, amareggiati, insopportabili? Chi ha una morale computerizzata non ha dubbi, è sicuro. Parla con un'autorità divina, sa cosa si deve fare. Per lui l'incertezza è già peccato. La parola giusta per lui sarà solo disubbidire, o i suoi sinonimi trasgredire, violare, infrangere. Egli non conosce altra alternativa. Perciò, se scrivo «essi disubbidiscono», ritiene tale espressione sbagliata perché non rientra nelle parole immagazzinate. Anzi, a volte è più drastico come il computer. Vi sono parole che il computer corregge automaticamente, senza segnalarle sbagliate o elencarle. Nello stesso modo, vi sono persone che senza tanti indugi automaticamente correggono la morale altrui. Sono quelli che stabiliscono che morale avere e che morale produrre. La parola di Dio riporta molti episodi d'uomini che avevano una morale computerizzata. O il fratello del figlio prodigo si adirò perché il padre faceva festa a suo fratello, il quale aveva dissipato tutti i suoi beni, e poi era ritornato a casa chiedendo perdono. La sua morale computerizzata lo riteneva un'ingiustizia. Quante volte riteniamo ingiusto che alcune persone che hanno fatto certe esperienze siano benedette più di noi, che non abbiamo commesso gravi peccati? O gli operai delle diverse ore hanno ritenuto ingiusto che il datore di lavoro avesse dato la stessa paga anche a chi aveva lavorato di meno. La loro morale computerizzata si ribellava a questa ingiustizia. Riteniamo noi sempre giusto che sia salvato anche chi, all'ultimo momento, si pente, dopo aver condotto la propria esistenza senza tener minimamente conto della volontà di Dio? O cibarsi da animali ritenuti impuri, era stato, a suo tempo, vietato da Dio al suo popolo. Quando Pietro ebbe visione di un nuovo ordine divino, contrario al precedente, si ribellò, molto diplomaticamente, a quest'ultimo dicendo «Niente affatto, Signore!» Notiamo come Pietro chiami Dio Signore, dopo aver risposto negativamente ad un suo preciso ordine. Per una morale computerizzata, quale aveva Pietro prima della discesa dello Spirito Santo, il divieto di mangiare animali impuri non poteva essere cambiato. Pietro era disposto a morire per Cristo, ma faceva molta fatica a cambiare la sua morale elettronica. Siamo noi in grado di cambiare usanze dettate dalla cultura e non dalla parola di Dio? Siamo in grado di mettere in discussione abitudini radicate della religione ufficiale, quali preghiere, venerazione rivolte ai morti e ai santi, atteggiamenti, questi, non approvati da Dio? O i fratelli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, chiedono a Gesù di bruciare delle persone perché queste non erano con loro nel seguire Gesù. Come poteva la loro morale computerizzata accettare che si potesse seguire Gesù in un diverso modo? Se essi seguivano Gesù con certe norme, perché altri potevano comportarsi diversamente? Secondo Giacomo e Giovanni, chi seguiva Gesù doveva stare insieme a loro. Essi non concepivano gruppi diversi. Dopo questi episodi, siamo noi capaci di accettare e avallare che altri possano seguire Gesù diversamente da noi e ritenerli figli di Dio? Siamo in grado di fare differenza tra cultura e verità? Siamo in grado di comprendere che la verità è la persona di Gesù Cristo, che chi dice di seguirlo può esprimersi nella fede in modo diverso, secondo la sua cultura? O i discepoli sgridarono coloro che portavano i bambini a Gesù. La loro morale computerizzata non permetteva che dei bambini disturbassero il Maestro. Che spaccio noi diamo ai bambini? Siamo in grado di lasciarci disturbare dai bambini appena nati in Cristo? Facciamo i moralisti? O siamo in grado di convivere con loro nonostante le loro uscite bambinesche? I bambini si possono aiutare istruendoli, non giudicandoli. Gesù aveva attorno a sé dei discepoli che spesso si comportavano da bambini, eppure con molta pazienza e amore, li ha sopportati e istruiti, ma mai allontanati. Questi sono episodi biblici. Quando però mi fermo a riflettere sulla nostra morale computerizzata, mi viene da sorridere e da piangere. Ho trovato ottimo il libro del pentecostale Juan Carlos Ortiz, Vivere con Gesù oggi, dove, con una schiettezza rara, l'autore mette a nudo la morale computerizzata del suo ambiente. Ecco uno stralcio. Io sono cresciuto in una chiesa pentecostale, per cui la mia coscienza è stata modellata dalla dottrina pentecostale. Non potevamo fumare né bere bevande alcoliche. Non ci era neppure concesso di ascoltare la radio. Era lecito nuotare, purché completamente vestiti. Ma siccome la cosa non era molto piacevole e non ci veniva consentito di indossare un costume da bagno, il risultato era che non nuotavamo mai, non ci era concesso di fischiare. Se avessi tentato di fischiare, la mia coscienza mi avrebbe accusato perché ormai era modellata su quell'insegnamento. Un giorno realizzai che proprio come la gente del mondo ha bisogno di essere liberata dalla droga, dalla violenza sessuale e da mille altri peccati, così anch'io avevo bisogno di essere purificato, liberato dal mio pentecostalismo. Sono pochi coloro che si accorgono di avere una morale computerizzata e una rivelazione dello Spirito Santo. Per comprendere che si sta sbagliando, occorre avere il coraggio di mettersi in discussione. Con questo non intendo sostenere che tutto sia relativo, ma che il tutto relativo è soggetto alla nostra comprensione, anziché a Gesù Cristo, il quale è la via, per accedere a Dio, la verità in questo mondo confuso e la vita, tanto per questa nostra esistenza quanto per quella futura. Come evitare l'errore di una morale elettronica? Il computer può ancora una volta fornirci un esempio. allargando i propri orizzonti. Davanti a certe parole che gli sono certe estranee, il computer chiede che lingua selezionare. Il computer è stato programmato per riconoscere anche altre lingue. Così se io scrivo house, il computer segna in rosso la parola perché non è italiana, ma se scelgo, come opzione, la lingua inglese, ecco che esso la può riconoscere. Questa caratteristica del computer dovrebbe insegnarci quanto sia importante, prima di colpevolizzare gli altri, studiarsi, di conoscere bene il prossimo e l'eventuale programma dal quale essi traggano la propria morale. È inutile insistere che la parola house sia sbagliata, perché se il nostro interlocutore ha una mentalità, l'errore dire ai giovani esclusivamente che baciarsi appassionatamente in pubblico è sbagliato non serve, perché nel loro file giovanile rientra un tale inglese, non capirà comportamento. Occorre, con pazienza e costanza, introdurre nel loro computer dati nuovi che possano portarli ad individuare l'errore della loro condotta. Ciò che rovina il nostro rapporto con il prossimo sono i giudizi di condanna. Noi abbiamo bisogno di essere compresi prima ancora di essere giudicati. Dobbiamo compiere quell'azione necessaria che svolgiamo nel computer quando non vogliamo che esso segni le parole in rosso. Quando una parola non è riconosciuta, il computer apre una finestra dove C è l'opzione Aggiungi. Cliccando su Aggiungi, il computer inserisce nel suo programma la parola nuova che, da quel momento, non gli è più estranea. Esso non la ritiene più sbagliata. Sì, tutti noi abbiamo un bisogno disperato d'amore. Vi sono persone che desiderano tanto l'amore che non sanno accettarlo. Ne hanno tanto bisogno da non saperlo prendere. L'amore cerca di capire, non condanna. L'amore aggiunge nuove parole al nostro file. L'amore è disposto ad abbandonare il proprio moralismo per poter essere purificato dalla parola di Dio. L'amore si avvicina affinché il prossimo si realizzi in Gesù Cristo, e non perché viva una vita piena di sensi di colpa. Occorre del tempo per acquistare la morale di Dio, ma ne occorre molto di più per liberarsi da una morale elettronica. Ma si può. Se uno non cerca, non trova. Se uno non vuole, non ottiene. Una curiosità. Il computer non riconosce il nome Ellero, per cui come alternativa mette Ellera e Ellere. Non mi sento offeso se il computer non mi riconosce. Questo per due motivi. Esso è una macchina. Non mi interessa essere capito o riconosciuto da una macchina. Inoltre, ognuno di noi è unico. Per cui, anche se non sono riconosciuto dagli altri, anche se qualcuno sottolinea il mio nome in rosso, C, è qualcuno che ha un programma talmente vasto da comprendere ogni particolare della mia vita, per il quale io vivo e al quale ho da rendere ragione, perché ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Romani 14:12. Maggio 2002. Ellero.